È una campagna che nasce in casa Arci, che vuole rendere più inclusivi i nostri spazi, i nostri circoli, per tutte le persone, a prescindere dalla loro identità sessuale e dalla loro identità di genere. È una campagna che potrete vedere nei circoli di tutta l'Emilia-Romagna e che vuole lanciare messaggi appunto sull'inclusività e sull'identità e contro la violenza maschile sulle donne. E quindi la lanciamo l'8 marzo proprio per questo motivo, insomma. Puoi farci qualche esempio dei messaggi che potremmo leggere? Sì, e sono sette. Una a cui tengo molto è quando ti sposi, quando fai figli, e che ha come sottotesto, ma davvero ancora queste domande, con una breve presentazione che dice che l'eterosessualità, la maternità sono solo una delle mille possibilità che una persona ha e quindi appunto non siamo così banali. Un'altra, pensata in particolare per gli spazi giovanili, è sul consenso e quindi sul fatto che ero ubriaca e me l'ha data, sul fatto che un sì ubriaco non è un sì e che il consenso appunto si può ritirare in qualsiasi momento anche durante il rapporto stesso. Ne seguono una classica che si sente molto spesso, purtroppo ancora, ma sei maschio o sei femmina? Ho riferito a una persona o riferito a un bambino o una bambina, e proprio insomma il cui senso è dire che i generi non sono due e il binarismo ci ha abbastanza stancato a tutti e a tutte. E poi ce ne sono altre, arriviamo a sette nella complessità e non ve li spoilerò tutti perché appunto dall'8 marzo li troverete in tutti i circoli. Oltre a questi manifesti, diciamo, la campagna prevede anche una sperimentazione sul linguaggio inclusivo. Sì, stiamo facendo degli incontri interni ai dirigenti della nostra associazione, tra comitati e tra circoli, e per capire quale può essere il linguaggio più inclusivo possibile. Ci siamo confrontate a lungo sulla schwa, sull'asterisco, sulla U, sul trattino basso, sul maschile e femminile a usare insieme continuamente, oppure su anche un femminile sovraesteso. Il senso di tutto è che un maschile sovraesteso non ci deve più rappresentare e quindi appunto l'idea è che ogni realtà inizi a comunicare in una formula più inclusiva possibile. Io ho deciso che per quanto riuscirò proverò ad usare il femminile sovraesteso per dare potere alle donne per nominarle continuamente. Cambiamento culturale che passa anche attraverso il linguaggio, ma leggevo anche attraverso bagni gender free. Sì, l'idea è che appunto ogni persona in un circolo non debba trovarsi davanti a due porte e decidere in quale entrare, se entrare nel bagno delle donne o nel bagno degli uomini, ma possa entrare liberamente in uno dei due, in quello che semplicemente è libero e prima di un altro. Questi adesivi che abbiamo creato da attaccare appunto sui bagni fa sorridere come cosa, in realtà è un percorso che stiamo facendo molto, molto importante all'interno della nostra associazione. Ne abbiamo parlato con diversi circoli, alle critiche diciamo che qualcuno anche in modo costruttivo per carità ci porta sul fatto che per esempio sia un discorso di igiene e una delle possibili risposte è che non è tollerabile che il bagno maschile non debba essere pulito tanto quanto quello delle donne e che sicuramente i maschi sono in grado di andare in bagno in un modo pulito come è richiesto alle donne e sul fatto che in alcuni luoghi, soprattutto circoli giovanili, possa essere un qualcosa legato alla sicurezza, una delle risposte che diamo è che nessuno spazio all'interno di un circolo, neanche i bagni, possano essere luoghi non sicuri per una persona e quindi non è comunque una scusa per non attaccare l'adesivo davanti alla porta del bagno.